presentare? Io sono Sonia, ho 23 anni e lavoro qui in Bucaneve da un anno. Mi sto per laureare. Come viene vista nella società la persona disabile? Allora, la persona disabile al giorno d'oggi è vista ancora un po' come una persona fragile in tante occasioni, ma il nostro lavoro al giorno d'oggi sta proprio puntando a far emergere la persona con disabile non tanto per la sua disabilità, ma proprio per il fatto che è una persona, tutti siamo delle persone e quindi abbiamo tutte le nostre fragilità e le nostre risorse. Quindi dobbiamo cercare di far vedere la persona disabile come una risorsa per la nostra società. Cosa vuol dire per te la fragilità? Ah, per me la fragilità è un qualcosa che ci può aiutare. Ci fa sentire deboli in alcuni momenti, ma se troviamo un modo per superare, per affrontare o anche accettare, prima cosa, la nostra fragilità, questi possono essere dei momenti di crescita personale nostra, no? E tutti possono essere fragili nella vita? Certo, siamo tutti fragili. Cosa significa esserlo? Essere fragili significa, secondo me, sentirsi, deboli di fronte a qualcosa, sentirsi che ci si può rompere, che ci si può fare del male, e questo secondo me è la fragilità, ma anche la paura di mettersi in gioco è una fragilità, no? Se dovessi descriverla con parole chiave, che parole usereste? La cheesecake, che sopra è morbida, ma sotto è dura, quindi può essere un qualcosa che ci può aiutare a sentirci anche forti nel momento delle nostre debolezze. Con colori. L'arcobaleno, perché ha milioni di ha molte sfaccettature e esce sempre dopo una tempesta, quindi qualcosa di positivo. Con immagini come le rappresenteresti? Allora, con un fulmine. Mi viene in mente un fulmine. Che suono musica sarebbe? Il rock. Proprio rock. E potresti descriverla con parole chiave, colori, suoni? Allora, chiave boom, la parola suono, e parole chiave, credici direi. Allora, per favorire l'inclusione, la cosa migliore da fare è lavorare con l'esterno, lavorare nella comunità, rendersi utili nella comunità. E quando una persona è vista per le sue potenzialità e non solo per le sue fragilità, questo significa già inclusione. Ah, si è un po' ancora nella mentalità di una volta dove la persona è ancora vista più per le sue disabilità che per la persona che è, perché è una persona e ognuno ha delle potenzialità. È bello stare qua. Sì, è molto bello. Si imparano tante cose. Sì, ogni giorno è una crescita, ogni giorno si imparano cose nuove, tutti insieme, un po' come essere sempre a scuola. Mi ha sentito parlare molto bene del progetto Domani, dalle intervistate. Loro trovano anche nelle piccole, proprio l'autonomia, imparare le autonomie per loro è proprio bello, cioè bellissimo, ma anche vederli, si mettono in gioco tantissimo, si mettono in gioco. E in ogni attività c'è la loro preoccupazione, più che l'uscire per tanti è cosa impariamo a fare oggi, cioè,